essere e tempo. Il tempo è stato sempre un mistero. Agostino, nelle Confessioni, 11, 14 e 18, afferma che tutti sappiamo cos'è, ma nessuno sa cosa sia in se stesso. La teologia della creazione permette di cogliere la ragione profonda di ciò. Il pensiero greco considerava praticamente equivalenti le categorie di permanenza, immortalità, necessità e divinità. La perfezione era rappresentata dalla misura. Il tempo era dunque considerato quasi divino in quanto necessario, ciclico e inesorabile. L'immortalità degli dei consisteva nel trascorrere continuo e ininterrotto del tempo. Il movimento non poteva essere reale, autentico, altrimenti il mondo sarebbe stato irrazionale. Ovviamente questa concezione doveva essere rivista nel contesto giudaico-cristiano, per il quale la storia e l'unicità degli eventi giocano un ruolo assolutamente fondamentale. Innanzitutto bisogna distinguere il tempo fisico dal tempo psicologico. Questo è il tempo che passa in fretta quando si sta bene e lentamente quando si soffre, per esempio durante una lezione noiosa. Nello spirito umano possono coincidere in un certo senso passato, presente e futuro. E la perfezione e la crescita dell'uomo sono legate proprio a questa capacità di avere il tempo dentro, poiché la cultura è memoria dell'esperienza propria e altrui, e perché si possono fare progetti solo se si riesce a pensarsi storicamente. Investire, ad esempio, vuol dire saper valutare, in base a un dato che viene dal passato, che la rinuncia ad un ritorno immediato nel presente produrrà un bene maggiore nel futuro. Il tempo cristiano unisce tutti questi aspetti. Esso non è solo cronos, cioè durata fisica, ma anche kairos, che in greco indica il momento opportuno, e pleroma, cioè compimento. Il tempo non ha solo una dimensione estensiva, cronos, ma anche una dimensione intensiva, kairos. Il cronos unisce i diversi kairoi tra loro puntando verso il pleroma, eppure non è il cronos che determina tutto, ma sono i kairoi, le tappe significative verso il fine costituito dal pleroma. Si pensi alla trama di un film o di un romanzo. Il cronos è lo scorrere fisico dei secondi di registrazione. I kairoi sono i momenti salienti, dove si svolgono le azioni più rilevanti, che spesso sono sottolineate da una musica appropriata, e il pleroma è il finale, che in un certo senso contiene tutto il racconto perché ne spiega le relazioni interne mostrandone il senso. Senza kairos non ci sarebbe storia, così come non ci sarebbe storia senza il pleroma, cioè senza la meta e il senso. L'esempio del racconto non è arbitrario, ma ha un profondo valore teologico. L'uomo, infatti, è immerso nella storia della salvezza, nella quale Dio agisce e viene incontro all'uomo con eventi e momenti concreti che portano all'incontro finale nell'escaton. La dottrina della creazione rivela che tutta la storia è storia della salvezza, perché il tempo è sotto il dominio di Dio e il cronos è una mera creatura. Non c'era tempo prima della creazione. Esso è caratteristica intrinseca delle creature e dunque ha il suo senso ultimo nel Figlio. Si pensi alle parabole dei talenti e delle mine, Matteo 25, 14, 30 e Luca 19, 12, 27, nelle quali Dio premia coloro che hanno fatto fruttare quanto era stato loro affidato, comportandosi come si comporterebbe un figlio e non un servo. Il tempo cristiano, allora, supera radicalmente la definizione aristotelica di misura del movimento secondo il prima e il dopo, fisica quarta 11, 21, 5b1, perché la dottrina della creazione lo illumina totalmente. L'irripetibilità dell'evento iniziale trasforma tutto ciò che è compreso tra questo principio e il termine in qualcosa di unico e incomparabile. Il tempo è gloria, diceva San José María Escrivá de Balaguer, cammino numero 355. Il tempo è una dimensione del creato, dello spazio, e estensione attraverso la quale le creature possono raggiungere il loro compimento. Il tempo è spazio per agire, spazium agendi, impronta della pazienza divina nella creazione. I kairoi, che segnano l'intervento di Dio nella storia, coinvolgono l'uomo che è chiamato ad accoglierli liberamente. Così l'uomo stesso, che è costituito dal Creatore come Signore del Creato, è anche Signore del tempo, in quanto partecipa realmente del dominio divino. La nozione greca di tempo, invece, non lascia spazio al libero agire dell'uomo. La libertà non è rilevante e quindi non c'è spazio per pensare l'amore in senso proprio e riconoscerlo come senso del mondo. La rivelazione cristiana mostra invece il valore della filiazione e dell'amore in tutta la loro pienezza e quindi mette al centro la persona, la libertà e la storia. Una vita può avere valore assoluto proprio perché il tempo è il luogo dell'agire libero dell'uomo che in quanto libero può amare e portare a compimento il progetto divino. L'uomo con la sua vita trasforma il Cronos in Kairos, portando tutta la creazione e quindi tutta la storia al pleroma, cioè al compimento. Basta guardare la vita di Maria per comprendere il valore del tempo e della storia. L'Evangelista Luca scrive che lei custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Luca 2,19. Questo intimo meditare è indicato con il verbo greco sumballousa, che rivela proprio il gioco di Cronos, Kairos e Pleroma. Meditare per lei vuol dire unire, mettere insieme. Sum ballousa, secondo il significato dell'espressione greca. I diversi Kairoi vengono conservati nel cuore perché dalla memoria dell'agire divino ne emerga il senso, cioè disegno divino di salvezza. Ma per avanzare nello scorrere del Cronos, fedeli a questa memoria, bisogna credere, avere fiducia nel Padre sorgente del senso, che in greco significativamente si dice logos. Il gioco tra fede e memoria passa dunque per il cuore, luogo dove vive il dono, in quanto ogni dono cessa di essere tale quando non parla più del donante, quando diventa solo possesso e non relazione a colui da cui viene. Lo stesso verbo ricordare indica il dono rinnovato del cuore, di quello spazio dove si rivela la relazione tra i Kairoi. Ricordare e ridonare il dono sono così molto prossimi, così come l'unire del siumballo evangelico, il quale si oppone direttamente al diaballo, verbo che significa separare e dal quale deriva il termine diavolo. È interessante notare che anche simbolo è etimologicamente connesso proprio al verbo usato da Luca. Esso indica le due parti di una tessera di terracotta che veniva spezzata e utilizzata come contratto e come segno di riconoscimento. Il movimento del cuore di Maria richiama dunque il simbolo della fede, che ne è in un certo senso il prolungamento. La Chiesa continua ad approfondire il senso degli eventi salvifici, professando la propria fede nel mistero di Dio uno e trino, che crea, redime e santifica. In questa prospettiva il tempo non è più concepito dialetticamente rispetto all'eterno, il limite non è più percepito come negativo. Alla dimensione spirituale dell'uomo si apre infatti l'eternità come compresenza di passato, presente e futuro. Le sue azioni hanno un eco nell'eternità, ancor più in un certo senso la determinano. L'uomo, nella relazione con Dio e nel dono della grazia, è in qualche modo eterno, è la sua storia. Si entra infatti nell'eternità con il proprio spirito e il proprio corpo e quindi con la propria dimensione storica. La domanda su come saremo per sempre è infatti cruciale. Una persona che muore con i capelli bianchi non è destinata infatti a rimanere per tutta l'eternità solo in tale stato, piuttosto che come quando era giovane, né assumerà l'aspetto di un unico momento della propria esistenza terrena. Ma la divinizzazione porterà la vita divina a tutti i momenti della propria storia personale, purificandoli e risuscitando il corpo anche in tutta la sua dimensione temporale. Dal pleroma attraverso i Kairoi anche il Cronos viene redento. Ciò avviene innanzitutto nella vita di Cristo, che è per sempre bimbo a Betlemme, dodicenne al Tempio, giovane lavoratore con Giuseppe, crocifisso e risorto. L'eternità non sarà quindi una semplice giusta posizione quantitativa di istanti limitati, ma una perfetta unione degli istanti nella loro dimensione qualitativa, perfetta compresenza di passato, presente e futuro. La vita vissuta così non scompare risucchiata dal tempo, ma in Cristo viene redenta e quindi riscattata per il cielo. Tutto il bene compiuto, la verità cercata, la fedeltà alle relazioni, così come la bellezza anche fisica e i momenti di pienezza vissuti, possono essere ritrovati nell'incontro con Dio. In questo senso, l'ontologia del dono permette di leggere il tempo dalla prospettiva dell'essere e quindi dell'eternità. Il tempo stesso, infatti, ha origine dall'eternità dell'amore di Dio e ha il proprio senso nel libero ritorno a questo amore eterno. La natura viene dalla soprannatura, la creazione dal creatore. L'opposizione dialettica tra ciò che è temporale e ciò che è eterno viene superata nella divinizzazione cristiana, in modo tale che l'esistere dell'uomo ha in Cristo un'eco eterna. Il tempo donato non viene riassorbito nel nulla, ma in qualche modo sarà per sempre. L'eternità diventa allora dinamica, in quanto partecipazione alla vita divina, come figli nel Figlio grazie allo Spirito. In questa eternità che trinitariamente si identifica con il cuore del Padre, si rivela allora il senso della storia, che chiede di essere letta in senso filiale. Ma tale meravigliosa visione del rapporto tra Dio e il mondo, tra il tempo e l'eterno, si fonda sulla chiara comprensione della distinzione tra la generazione eterna del Figlio e la creazione. La seconda persona della Trinità non fu generata in un certo momento, ma è eternamente generata, si potrebbe dire dal punto di vista umano, che è generata in ogni istante. Le realtà create, invece, sono state create in un determinato istante, in quell'istante che rappresenta l'inizio del tempo. Proprio nel IV secolo, grazie al confronto con l'eresia ariana, fu riconosciuta questa essenziale differenza. Solo le tre persone della Trinità sono eterne. Il Logos non è creatura né un grado intermedio tra il creatore e il mondo, un mediatore necessario come il demiurgo platonico. La creazione non è allora eterna, ma ha origine dalla libertà e dall'amore di Dio. La chiara comprensione di questa radicale differenza tra la Trinità e il mondo ha permesso di leggere la creazione come dono. Il tempo è un mistero, come diceva Agostino, proprio perché il suo senso è la libertà. La storia, con i suoi chiaroscuri, con i suoi rischi, deve essere letta a partire dalla filiazione. L'uomo è chiamato a diventare figlio attraverso la sua libertà, conformando il tempo al disegno divino, al cuore del Padre in Cristo per lo Spirito Santo. In questo modo, al compimento della vita, la sua storia sarà storia d'amore. Se solo Dio è eterno ed è amore, allora, nel momento in cui l'esistenza umana è impregnata d'amore, essa diventa eterna. In questo modo, attraverso l'amore del Figlio, la creazione entra nell'eternità e il valore del creato e del mondo storico e materiale assurge ad un livello inimmaginabile. La storia della salvezza diventa così salvezza della storia.